9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi, buongiorno, buona settimana di Ferragosto. Oggi parliamo di un tema che ci riguarda tutti, che tocca tutte le nostre tasche, il tema dell'energia, delle bollette dell'energia elettrica, del caro energia, come spesso si dice, ma con grande ragione, perché l'energia è cara l'energia elettrica, è caro il gas, è cara la benzina, che è da poco rincarata, non solo per effetto dei prezzi petroliferi, ma soprattutto per effetto della tassazione. Quindi l'energia è qualcosa di indispensabile alla vita quotidiana, ma è qualcosa che indubbiamente pesa, ma può essere anche un aiuto. Proprio oggi su Repubblica c'è il piano del governo per l'energia: alzare la produzione petrolifera nazionale fino a raggiungere il 20% della domanda, nuovi investimenti sul gas, nuovi metanodotti, questo per rilanciare la crescita, per rilanciare gli investimenti, ma anche per cercare di abbassare il prezzo dell'energia per le famiglie e per le imprese. Il prezzo dell'energia che è per le imprese, per esempio, è più alto del 30-40% rispetto alle imprese degli altri paesi europei, e questo costituisce un fattore di scarsa competitività, un ostacolo appunto alla competitività delle imprese italiane, e quindi un ulteriore ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico. Ecco, quindi l'energia come elemento centrale, energia su cui peraltro non è che non si sia fatto nulla. Il settore dell'energia elettrica, per esempio, è un settore in cui si sono fatte delle forti liberalizzazioni, è un settore anzi tra quelli più liberalizzati, anche se forse è difficile da parte delle famiglie rendersene conto, perché si sono certamente offerte di distributori di energia che offrono possibilità di contratti a prezzi virtualmente più bassi, ma è difficile districarsi e capire veramente quale può essere il risparmio. Dicevo, è un settore liberalizzato, c'è per esempio un gestore indipendente per la distribuzione ad alta tensione come Terna, ci sono tanti produttori, ci sono tanti distributori, quindi è un mercato virtualmente tra i più avanzati, ma gli effetti, poi le ricadute effettive di questo mercato sono difficili da valutare, e comunque l'energia resta cara. Io saluto i nostri ospiti di oggi, che ci aiuteranno a entrare in questo mondo dell'energia e anche a dare qualche consiglio utile a chi ci ascolta, per cercare appunto di capire meglio almeno com'è questa giungla energetica. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate e per i messaggi SMS, il 349 238 6666. Buongiorno Federico Rendina. Buongiorno, buongiorno. Giornalista, inviato del Sole 24 Ore, esperto di energia, e saluto anche Edgardo Curcio. Buongiorno, dottor Curcio. Buongiorno, buongiorno. Presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti per l'Energia, Massimo Beccarello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Responsabile della riforma del mercato del gas in Confindustria, professore di economia alla Milano Bicocca. Paolo Landi, segretario di Adiconsum. No. Presidente della Fondazione Consumo Sostenibile, della Ricordi mi sono dimesso un anno fa. Ah, mi scusi. Sono andato in pensione e sempre... ho fondato la Fondazione Consumo Sostenibile. Buongiorno a Paolo Landi, rappresentante dei consumatori, possiamo chiamarla così. Va bene. In attesa di Alessandro Ortis, ex presidente dell'Autorità per l'Energia, chiedo a Federico Rendina. Allora, io ho detto all'inizio, il mercato dell'energia elettrica, stiamo su questo perché senza appunto per adesso parlare di petrolio, gas, tutto il resto, l'energia elettrica, la bolletta dell'energia. Il mercato dell'energia elettrica è un mercato liberalizzato, eppure gli effetti sono limitati, o almeno sembrano essere limitati da parte delle famiglie. Federico Rendina, come mai? Sì, direi assai limitati, anche se occorre parlare anche di mercato del gas, perché i due mercati sono strettamente interconnessi, perché il mercato del gas è quello che ci approvvigiona della materia prima principale con cui in Italia produciamo l'energia elettrica. Ecco, però diciamo che il settore dell'energia è voglio dire l'esempio classico di come le liberalizzazioni da sole possono poco fare se non sono correttamente governate, incanalate, promosse e sorvegliate passo dopo passo. Uno scenario un po' simile a quello a cui abbiamo assistito una quindicina di anni fa con le telecomunicazioni, no? Con come dire, un fattore apparentemente positivo, ma che poi risulta un aggravante, e cioè che nelle liberalizzazioni, in effetti, nelle liberalizzazioni dell'energia abbiamo proceduto in maniera molto molto decisa e molto molto rapida, nel senso che possiamo ben dire che da parecchio tempo lo scenario è assolutamente liberalizzato, aperto alla concorrenza di più produttori. Ecco però che cosa è successo? È successo un po' anche qui con vari aggravanti quello che è successo nelle telecomunicazioni, cioè un fiorire di gestori con un fiorire di offerte che hanno confuso e non hanno orientato correttamente il consumatore da una parte. Se la vediamo dal punto di vista del consumatore, sia il consumatore diciamo famiglia, domestico, sia il consumatore industriale, con il consumatore industriale che chiaramente essendo più grande, essendo più avendo più potere contrattuale, ha qualche arma in più per scegliere correttamente tra le opportunità che lo scenario liberalizzato gli pone. Ecco, questo che cosa, però le liberalizzazioni da sole, appunto, come dicevamo poco fa, non possono risolvere i problemi strutturali che l'Italia ha da parecchio tempo. Quali sono questi problemi strutturali? Sono la dipendenza record, attorno all'85% di ciò che serve per produrre energia, il gas soprattutto, appunto, come dicevamo prima. È un ricorso ridotto, molto problematico, alle estrazioni nazionali di petrolio e gas, appena il 10%. Ecco, in questo diciamo che è apprezzabile la volontà, che peraltro era stata già espressa negli scorsi anni dai passati governi, di risolvere questi problemi strutturali con un piano energetico nazionale che da una parte promuovesse il più corretto ricorso alle fonti di energia da parte dell'Italia e dall'altro incanalasse la liberalizzazione e la concorrenza tra gestori verso uno scenario effettivamente di diciamo competizione corretta tra questi gestori e di chiarezza delle offerte. Ecco, ma proprio sul punto, Federico Rendita, proprio sul punto della chiarezza delle offerte, c'è il fatto che la bolletta elettrica resta molto spesso un rebus, anche perché nella bolletta elettrica ci sono tanti elementi, non c'è solo il costo dell'energia vero e proprio, il costo di produzione più il costo di trasmissione, ma ci sono anche, oltre alle tasse, ci sono anche degli oneri propri o impropri. Per esempio nella bolletta elettrica paghiamo l'incentivo per le rinnovabili, paghiamo lo smaltimento del nucleare, cioè quindi la possibilità da parte dei gestori di avere una certa flessibilità è molto limitata. Beh, diciamo che anche questo è un fattore che in qualche modo inganna, perché quando i gestori ti promettono il 20% di sconto, in realtà si riferiscono a quella parte della bolletta che riguarda, come dire, l'uso della materia prima e non riguarda tutti gli extra costi. Quindi il 20% diciamo che vuoto per pieno la promessa dei gestori va, sempre che poi sia mantenuta, dimezzata per quello che riguarda l'impatto sui nostri conti, nel senso che quando un gestore ti promette il 20% di sconto, in realtà possiamo ricavarne il 10%, che non è comunque poco, ma il problema non è questo, il problema è che le promesse dei gestori molto spesso si rivelano, come dire, fallaci e ingannatorie. Ecco, e qui devo dire che anche negli ultimi mesi si è assistito a un fenomeno, poi il nostro, come dire, rappresentante dei consumatori potrà entrare più nel merito se vorrà della questione, e anche gli altri interlocutori, spesso con delle offerte porta a porta, diciamo al limite del pirataggio e dell'assoluto abuso, vengono in qualche modo propinate delle condizioni contrattuali ai consumatori, magari spesso degli anziani, della gente meno consapevole, che gli comportano un ulteriore aggravio di bollette che sono già, appunto, come dicevi correttamente, caricate di oneri su cui per ora poco si può fare, che sono il trascinamento di vecchie scelte o mancate scelte o scelte scorrette o scelte improvvisate del passato, appunto il nucleare, appunto le rinnovabili. Ecco, scusami, no, ti fermo un attimo, Federico, scusami, ma ecco, il settore delle rinnovabili indubbiamente è un settore importante, però hai lanciato un sasso, non bisogna lasciarlo cadere della palude, anche perché Paolo Landi, lo sento, sicuramente ha qualcosa da aggiungere. Starei proprio per adesso, poi andiamo anche sulle rinnovabili, che è un tema molto importante, però proprio sul tema della trasparenza delle bollette e sul fatto che le offerte dei gestori, al contrario direi delle offerte dei gestori delle telecomunicazioni, che appaiono molto più chiare, non sono così trasparenti e spesso danno luogo, appunto, se non a vere e proprie truffe, comunque all'occultamento parziale della verità. Paolo Landi. Sì, Ecco, una precisazione: quando parliamo di mercato libero dell'energia elettrica, è importante ricordare che sul mercato libero oggi sono circa 6 milioni di famiglie e piccole imprese e medie imprese, ancora 26 milioni invece sono ancora sul mercato vincolato, sul mercato protetto, dove le tariffe sono stabilite dall'autorità. Ma questo quindi per decisione ancora, diciamo così, è una quota abbastanza minoritaria di tutto quello che è l'utenza del settore elettrico. Ecco, ma scusi Paolo Landi, questo non perché siano vincolate a stare nel mercato vincolato, perché vogliono stare nel mercato vincolato, possono benissimo uscire ed entrare nel mercato libero. Esatto, stavo dicendo questo. È chiaro che ogni mese più o meno sono circa 100.000 utenti che passano al mercato libero, che sono tanti. Però occorre anche aggiungere, questo è un dato preoccupante su cui riflettere, che circa il 20% di utenti che sono passati sul mercato libero perché si aspettavano una bolletta più leggera, perché si aspettavano un maggior servizio, perché si aspettavano una maggiore qualità, invece sono tornati indietro sul mercato vincolato, sul mercato protetto, dove le tariffe sono stabilite dall'autorità. Allora qui ci sono due problemi importanti. Il primo è che nel settore dell'energia la concorrenza e quindi la differenza, i vantaggi, sono estremamente modesti. Mediamente, passando al mercato libero, una famiglia può pensare di risparmiare 20-30 euro, può arrivare anche a 50 in taluni casi, ma parlo di annui, non mensili, annui. Quindi il vantaggio del mercato libero purtroppo è ancora molto modesto e quindi la concorrenza è limitata. Il secondo problema è che c'è poca trasparenza. Poca trasparenza in che senso? Nel senso che quando si va a proporre alle famiglie di passare al mercato libero, non gli si dice che passano al mercato libero. Spesso e volentieri queste persone che arrivano a casa dicono: vuoi lo sconto? Firma qui che ti diamo lo sconto. Poi le persone si accorgono di quello che hanno firmato e vedono che quel vantaggio che gli era stato promesso non c'è, oppure magari vedono che gli arriva una bolletta molto più elevata su un consumo che non hanno realizzato, quindi su delle fatturazioni sbagliate, e quindi tutto questo ha creato molti problemi, vuol dire molte insoddisfazioni, molte critiche, e quindi alcuni consumatori passati al mercato libero sono tornati indietro. Quindi c'è bisogno di maggior trasparenza. Ecco, maggiore trasparenza, una bolletta più chiara, e significa soprattutto avere la possibilità di scegliere con criterio, con chiarezza, con trasparenza, qual è il vantaggio che passando al mercato libero. Perché spesso e volentieri io ho un vantaggio nel breve periodo, ma poi questo vantaggio finisco per non averlo più. Grazie a Paolo Landi. In Inghilterra, dove hanno fatto uno studio, sì. In Inghilterra, dove hanno fatto uno studio, si sono accorti che molti consumatori passati al mercato libero pagano di più rispetto a quello che avrebbero pagato sul mercato vincolato. Quindi c'è bisogno di maggior controllo e maggiore informazione al consumatore. Ecco, maggiore informazione e anche regole magari diverse che non portino degli oneri impropri all'interno delle bollette, che non permettano questa mancanza di trasparenza. Ecco, prima di arrivare a vedere come mai si è ancora a questo punto dove state le liberalizzazioni, io vorrei sentire da Massimo Beccarello, responsabile del mercato del gas in Confindustria, se per le imprese il problema è più o meno lo stesso che per le famiglie, cioè che questa liberalizzazione ha portato sì una maggiore possibilità di scelta, ma le imprese dovrebbero avere una maggiore possibilità, un maggiore peso contrattuale, riescono a ottenere degli effetti, dei benefici maggiori rispetto alle famiglie dalla liberalizzazione del mercato elettrico. Massimo Beccarello. Allora, non c'è dubbio che con la liberalizzazione, soprattutto con un nuovo modo di approvvigionare l'energia attraverso anche consorzi, pool di acquisto, sicuramente possono migliorare le condizioni di approvvigionamento. Credo che però anche il sistema delle imprese soffra degli stessi problemi strutturali che hanno le famiglie. Non dimentichiamoci, lei ha toccato un punto importante, la relazione tra liberalizzazione e costo dell'energia. Guardate che noi, credo a fine anno, arriveremo che un 50% del costo dell'energia è strettamente legato all'assetto competitivo del mercato, mi riferisco a quella elettrica, ma poi quasi un 50% dipenderà sostanzialmente da quelli che sono valori di costo essenzialmente amministrati. Mi riferisco a tutte le componenti parafiscali, prima di tutte la componente A3, che è l'incentivazione delle rinnovabili. Quindi oggi noi ci troviamo a un bivio dove un percorso di liberalizzazione sostanzialmente viene in qualche modo spiazzato dalla prevalenza sempre maggiore nelle componenti di costo di quelle che sono le componenti amministrate, e probabilmente a fine anno arriveremo a un 50-50. Credo che il tema oggi per le imprese sia soprattutto un problema di costo relativo rispetto ai principali competitor, in particolare gli altri paesi manifatturieri che abbiamo nel contesto europeo, ed è sostanzialmente su questo riferimento di benchmark di costo che oggi si gioca la competitività e il costo dell'energia come volano di competitività nel contesto europeo. Ecco, ma lei pensa, dottor Beccarello, che sia possibile avere degli spazi per crescere appunto sul fronte dell'efficienza energetica, riducendo attraverso delle misure interne il costo dell'energia? Guardi, lo spazio sull'efficienza energetica è importante, un potenziale estremamente rilevante per due ragioni. Non solo perché un paese che ha l'80-90% di dipendenza energetica deve fare dell'efficienza il volano principale della propria competitività. Tenete presente che i settori, ad esempio energy intensive, si trovano già in termini di posizionamento strategico tra i settori più efficienti nel contesto internazionale. D'altra parte è una condizione per la loro sopravvivenza. Ma l'efficienza energetica sicuramente è anche un volano di crescita industriale. Non dimentichiamoci che nelle tecnologie per l'efficienza energetica l'Italia ha una leadership tecnologica che non è seconda a nessuno nel contesto europeo. Quindi probabilmente una rivalutazione delle politiche per l'efficienza energetica nell'ambito del quadro delle politiche per la sostenibilità è sicuramente non solo un fattore di economicità, ma anche un importantissimo fattore di sviluppo economico. Ecco, grazie dottor Beccarello. Io vorrei chiedere ad Edgardo Curcio, presidente dell'Associazione Italiana Economisti per l'Energia, se appunto in questa analisi appare più forte, diciamo, il peso delle politiche in un certo senso che hanno gravato l'energia di oneri non tanto impropri quanto di oneri accessori, appunto come gli incentivi per rinnovabili, che secondo alcuni dovrebbero essere invece a carico un po' della generalità e non solo degli stessi consumatori dell'energia, oppure appunto su questo fronte ci sono degli spazi proprio di efficienza e di economicità che l'Italia può sfruttare meglio. Per esempio, appunto, adesso si parla molto dei rigassificatori. Abbiamo visto come per anni la realizzazione dei rigassificatori sia stata ostacolata per opposizioni di carattere ambientalistico, di carattere ecologico, mentre l'approvvigionamento del gas è fondamentale per la stessa produzione di energia elettrica, come ricordava giustamente Federico Rendi. Professor Curcio. Allora, io distinguerei le due cose. Allora, per quanto riguarda la parte della bolletta elettrica che pagano le imprese, c'è sicuramente un onere molto forte da parte di queste, diciamo, sussidi che vengono, diciamo, riversati sulla bolletta, quindi parliamo delle altre componenti. Noi abbiamo fatto uno studio per quanto riguarda i grandi consumatori di energia, cioè le società energy intensive, che sono poi molto importanti per il paese, e abbiamo visto che in Italia le società energy intensive pagano per la parte oneri molto di più di quello che pagano per esempio le imprese in Germania, in Francia e in altri paesi. E naturalmente questo dipende quindi da una regolazione, da una tassazione che non fa capo al settore del gas, che non fa capo al costo della materia prima. Quindi su questo secondo me c'è dello spazio per poter intervenire, evitare fenomeni di scarsa competitività e delocalizzazione delle imprese all'estero, cosa che si potrebbe verificare se le imprese italiane, soprattutto quelle grandi consumatrici di energia, quindi le imprese elettriche, le imprese della ceramica, le imprese del cemento, eccetera, vengono tassate in questa maniera molto elevata. Per quanto riguarda invece il costo della materia prima, certamente il problema del gas è un problema fondamentale, come hanno detto gli altri interlocutori. Il problema del gas dipende da varie situazioni, una delle quali è il fatto che noi in Italia abbiamo un'importazione del gas con delle clausole take or pay, cioè con dei contratti fissi agganciati al prezzo del petrolio per il 70-80% della contrattualistica che viene fatta, e questi contratti quindi salgono quando sale il prezzo del petrolio, e questo certamente danneggia le imprese italiane che consumano gas, ma diciamo anche alle imprese elettriche che sono costrette a, diciamo, rifornirsi sul mercato del gas perché hanno praticamente gli impianti, le centrali termoelettriche che vanno a gas. Ecco, questo fatto però non è che si può risolvere soltanto con diciamo, un aumento dei rigassificatori, dipende proprio da una politica che manca nel campo del gas, dove praticamente si è fatto molto poco, un po' per il monopolio dell'ENI e un po' perché la mancanza di infrastrutture è congenita, e diciamo, è un fatto che effettivamente è basato sulle difficoltà a creare nuovi investimenti per le resistenze locali, ma anche per il fatto che gli investitori in questo momento non sono molto interessati a investire nel settore termoelettrico, che in questo momento ha margini negativi e perde un sacco di soldi, tant'è vero che lavora il settore termoelettrico in questo momento al 60%, cioè una parte delle centrali termoelettriche italiane che lavorano con il gas, lavorano soltanto in parte, tengono una parte di impianti chiusi perché sono praticamente legate a una mancanza di consumi, e tra l'altro sono anche legate al fatto che le fonti rinnovabili che vengono, diciamo, dispacciate con priorità dal gestore spiazzano le fonti fossili, quindi in certe ore, soprattutto le ore centrali del giorno, le fonti fossili non vengono prese dal distributore e quindi i distributori elettrici, i generatori elettrici sono praticamente costretti a lavorare al 50-60. Beh, questo però è anche una scelta che può essere una scelta che possiamo giudicare positiva, il fatto di ricorrere di più alle rinnovabili, che sono poi fonti nazionali, fonti interne, piuttosto che al gas. Ma questo è un problema di politica energetica e anche di razionalità e anche di economicità dei consumi, perché sappiamo comunque che il costo dell'energia prodotta dalle rinnovabili è maggiore del costo dell'energia prodotta con i fonti tradizionali. Però proprio per restare sul fronte concreto delle bollette elettriche, devo dire, molti messaggi parlano proprio dell'inganno che hanno avuto alcuni consumatori nel cambiare gestore. Sto pagando di più, alcuni dicono, per leggere una bolletta elettrica bisogna essere laureati, le bollette sono illeggibili, ma sono leggibili sia quelle dell'energia elettrica sia quelle del gas. Ecco, su questo volevo sentire Alessandro Ortis, che è stato presidente dell'Authority per l'energia, ma devo lasciare lo spazio molto breve alla pubblicità. 9 in punto. Eccoci qua, allora parliamo di energia. Proprio l'ultimo messaggio poco fa dice: le bollette sono incomprensibili, ci vogliono sintesi, costi chiari e confrontabili. Alessandro Ortis ha guidato fino a qualche mese fa l'Authority per l'energia. Il suo compito, uno dei suoi compiti sarebbe stato, mi permetta Alessandro Ortis, quello di reggere più chiari le bollette. Come mai non c'è riuscito? Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come non ci si è riusciti e come qualcosa si è fatto, e anzi abbastanza, nel senso che c'è a disposizione, lo ricordo, un sito dell'autorità e anche uno sportello con un numero verde che può essere ben consultato, e anzi io incoraggio tutti quanti, tutti noi, a consultarlo continuamente. Perché peraltro su questo sito si trova un'icona, e forse non molti lo sanno, la bolletta spiegata, e quindi la possibilità di analizzare come è fatta una propria bolletta e quindi sapere, discernere fra le varie offerte possibili andando a guardare questo sito e queste informazioni. Ma e le informazioni evidentemente devono essere date anche da chi propone, e qui credo che l'ANDI abbia messo il dito su un problema importante rispetto al quale l'autorità da sempre e anche ultimamente si pone con insistenza nei riguardi di tutto il sistema di promozione. Si è parlato di trasparenza, correttezza della promozione, e quindi bisogna fare in modo che gli operatori controllino tutto il sistema e l'apparato che riguarda la promozione. Perciò anche quei promotori che riceviamo in casa, è successo anche a me, devono essere gestiti e controllati in modo tale che l'informazione al consumatore arrivi pienamente corretta. Peraltro con tutti i crismi della regola del gioco, perché deve essere rappresentata la propria offerta come differenze anche rispetto al prezzo che viene fissato dall'autorità per il cosiddetto mercato vincolato evocato dall'ANDI, per cui noi dobbiamo stare molto attenti a questo, e naturalmente perciò cogliere le opportunità e le differenze che ci sono fra offerta e offerta. Ma Riguardo al costo complessivo che grava sulle famiglie e sulle imprese e quindi sulla competitività paese della nostra spesa energetica, dei nostri consumi energetici, credo che un punto importante l'abbia sollevato Rendina e ricolto ancora anche da Curcio, quando mettono in evidenza la centralità della questione gas per il nostro paese, perché non si parla solo di bollette elettriche, si parla di bollette gas e dobbiamo ricordare noi consumatori, famiglie per esempio, che il grosso della nostra spesa familiare è una spesa gas, perché essa stessa direttamente rappresenta il 71% della nostra spesa annuale e l'altro 29% di bolletta elettrica, per la bolletta elettrica a sua volta è influenzato enormemente dal gas, perché l'energia elettrica, si sa, oggi si produce per più del 50% col gas. Quindi la questione gas, la competitività degli approvvigionamenti gas del nostro paese incide come non mai sull'onere di bolletta. Ecco, questo è il punto. Detto questo, torno alla giusta provocazione nel dire che non c'è dubbio che una delle chiavi di volta per spingere verso una maggiore competitività del sistema energetico è quello di dare maggiore potere ai consumatori. Quindi, ecco, mi chiedono, dottor Ortis, un messaggio, se ci sono state delle sanzioni verso dei gestori che hanno avuto comportamenti, tra virgolette, truffaldini. Ma certo, ci sono state, anche molto gravi, molto pesanti, e per la verità, quando facevo il presidente dell'autorità, più volte ho convocato anche i vertici delle varie aziende, perché al di là delle sanzioni, quello che deve essere chiaro ed è importante e deve essere compreso, ed è compreso abbastanza a mio avviso a livello degli altri vertici, ma deve poi questa consapevolezza deve essere trasmessa via via giù per i rami fino alle persone che devono poi fare l'attività di promozione, è la centralità del consumatore per i loro stessi interessi. Quindi, sentiamo un consumatore, Massimo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Ci dica. Proprio lo sento molto con molto interesse. Dunque io mi sono trovato con il contratto presso l'ACEA di Roma, va bene, cosa che non avevo mai chiesto, casualmente non lo sapevo, dice ma lei dal 1° di marzo di quest'anno sta presso l'ACEA, ma io non mi risulta aver fatto, per telefono questi signori dell'ACEA non rispondono mai, comunque sia ho fatto una raccomandata con diffida, diciamo, dalla prosecuzione del contratto e comunque che mi facessero sapere eventualmente gli estremi per quale motivo il contratto era presso di loro. Lei aveva un contratto presso l'Enel prima e poi è passato alla CEA, come è capitato? No, non sono mai passato, non ho mai chiesto di passare. Cioè, comunque, mi trovo diciamo con il contratto presso la CEA e l'Enel, diciamo, è bloccato, diciamo, e non riesco dunque, ho scritto al 1° maggio a loro, alla CEA, ancora non mi hanno risposto, sono andato allo sportello, mi hanno detto che non è una bolgia che non le dicono, insomma una mattinata che tutte le persone che stanno lì a lamentarsi, a protestare per questi metodi che loro hanno. Ecco, grazie. Comunque, no, mi sembra che il problema sia molto chiaro, lo giro immediatamente ad Alessandro Otti, è possibile che un gestore subentri a un altro automaticamente? Oh, questo non può essere ed è la patologia di cui stiamo parlando, per cui volevo inserirmi velocemente per suggerire al nostro interlocutore, al consumatore, un numero di telefono molto semplice, 800 166 654, ripeto 800 166 654, questo è lo sportello per il consumatore, quindi qualsiasi lamentela. Questo dell'autorità dell'energia? Assolutamente, fa capo all'autorità dell'energia tramite l'acquirente unico e quindi è il numero di telefono a cui segnalare ogni malfunzionamento, ogni rilievo, ogni reclamo, perché questo sportello, questa unità è proprio messa a disposizione per cercare di risolvere e soprattutto far risolvere i problemi, e al di là di questo per raccogliere reclami che poi possono diventare anche atto di sanzione. Aggiungo che su questa patologia si sta continuamente stringendo i freni in modo tale da rendere sempre più corretto e sempre più trasparente il rapporto con i consumatori. Aggiungo, ci sono poi anche le associazioni dei consumatori che sono sempre coinvolte in questa tipologia di problematiche, che sono in grado loro stesse anche di essere un interlocutore interessante. E sotto questo aspetto credo che valga la pena che fra le cose che deve fare, farà il governo a favore del sistema dell'energia, potrebbe anche esserci una valorizzazione del CNCU, quel famoso Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, che può anche questo impegnarsi sotto questo aspetto. Ecco, però sotto questo profilo, mi scusi Ortis, sì, ci sono alcuni messaggi che senza peli sulla lingua dicono le associazioni di consumatori non servono a nulla, anzi magari ci guadagnano anche su quello che fanno. Ovviamente sono messaggi che nella loro sinteticità però lasciano trasparire una certa insoddisfazione, non tanto e non solo per quanti forniscono dei servizi, ma anche per quello che fanno le associazioni di consumatori. Allora, Paolo Landi, come rispondere a queste, diciamo così, proprio accuse? Ma guardi, le associazioni di consumatori raccolgono tantissimi reclami e hanno anche delle procedure di conciliazione per tentare di risolverli. Vero è che quando capitano questi casi è difficile riuscire a risolverli, perché spesso non si riesce ad avere neanche l'interlocutore con cui tentare di risolvere il problema. Per cui un primo consiglio a chi ci ascolta: quando chiamano a casa e vi chiedono il numero del contratto, attenzione, perché se date il numero del contratto poi significa che quelli prendono per buono che voi avete dato il consenso a passare al mercato libero. Invece chiedete che vengano a domicilio, che portino un contratto scritto, che leggiate il contratto scritto, che vi rendiate conto di quello che firmate. Mai firmare al buio. Così pure quando vengono a casa a domicilio e dicono: benissimo, c'è uno sconto, firma qui che avrai lo sconto. Attenzione, fatevi dare il contratto, leggetelo attentamente, fatelo spiegare, prendete tempo, perché in caso contrario poi uno si trova in quelle situazioni in cui ha firmato senza rendersene conto. E tornare indietro purtroppo oggi è una situazione abbastanza difficile e complicata anche per le associazioni consumatori, però devo dire che molti casi, migliaia di casi, sono stati risolti dalle associazioni consumatori in modo positivo. E io concordo con quello che diceva Ortiz: quando succedono questi casi, attenzione, segnalatelo subito all'autorità dell'energia, questo sportello del consumatore. Ecco, anche le imprese temono moltissimo queste segnalazioni, perché sanno che da queste segnalazioni possono scattare delle sanzioni nei loro confronti. Quindi immediatamente coinvolgete le associazioni consumatori, ma segnalatelo anche all'autorità a questo sportello, possibilmente per iscritto. Forse ci vorrebbe anche una maggiore informazione su quello che fa, l'authority, sulle sanzioni che vengono irrogate, sulle società che vengono coinvolte. Alcuni ascoltatori con gli SMS ci chiedono: fate i nomi di chi ha truffato. Ecco, non è certamente questo il luogo e il momento. Società non fanno direttamente queste operazioni, le fanno fare tramite agenzie, quindi quelle che arrivano a casa sono delle agenzie incaricate, certo, dalle varie società a fare i contratti, e questi giovani sono pagati un tanto al contratto, quindi cercano di strappare il contratto anche con modi non del tutto corretti. Certo, così come avviene con i call center, che fanno delle offerte per avere un contatto positivo, ovviamente eccedono forse dell'offrire delle particolarità appunto che siano allettanti per il consumatore. Ecco, sotto questo profilo, per i contratti delle famiglie è certamente importante quanto possono fare le società dei consumatori, così come è importante anche per le imprese avere una capacità di impatto e di presentazione unitaria, magari mettendosi insieme verso appunto i produttori e i gestori di energia elettrica. Massimo Beccarello, in questo senso anche le imprese hanno avuto e continueranno ad avere una possibilità di mettersi insieme e su questo fronte ottenere migliori condizioni? Massimo Beccarello. Credo che questa sia la strada maestra, anche perché non dimentichiamoci che il mercato elettrico, ma soprattutto anche il mercato del gas, sono dei mercati fortemente concentrati, se non altro dal lato della produzione. Quindi sicuramente l'aggregazione fa informazione, conoscenza del mercato, consente approvvigionamenti più efficienti. Non dimentichiamoci che accanto poi a quelle che sono state le truffe ricordate sia dagli ascoltatori sia dagli interventi che mi hanno preceduto, già la scorsa settimana ad esempio nel mercato del gas all'ingrosso ci sono stati quasi 280 milioni di euro di gas non pagato sul quale l'autorità ha dovuto intervenire e che poi vengono purtroppo socializzati senza sapere mai né il nome né il cognome dei soggetti che hanno causato questi disservizi, che poi significa vendere gas e non pagarlo. Quindi il tema della trasparenza, il tema del corretto funzionamento del mercato e delle garanzie è un problema che riguarda un po' tutta la filiera. Citavo questo esempio del mercato del gas perché poi queste inefficienze vengono socializzate e di conseguenza aumentano i costi di tutta la bolletta. L'autorità è intervenuta, c'è ancora molto da fare, credo insomma che l'attenzione vigile da parte di tutti gli stakeholder del mercato possano sicuramente concorrere a migliorare. Naturalmente è un work in progress che noi dobbiamo sostenere nel tempo. Ecco, ma in questo senso si può dire comunque che la concorrenza sta cominciando ad avere effetto, la concorrenza anche con l'ingresso di nuovi gestori, con l'ingresso anche di società straniere sul mercato italiano, professor Beccarello? Guardi, io credo che dobbiamo sospendere la risposta, perché giustamente il presidente Orti si ricordava che la grande sfida dei prossimi mesi è il mercato del gas. Noi abbiamo avuto un importante provvedimento che era la separazione societaria di Snam Rete Gas, però credo che la vera sfida sia comprendere bene quale sarà la mission che si dà al nuovo soggetto rispetto al rafforzamento della concorrenza del mercato. Questa sarà la chiave di volta non solo per un costo di approvvigionamento al gas più efficiente. Io non credo tanto che i rigassificatori saranno la via maestra. Non dimentichiamoci che oramai la domanda interna di gas è stazionaria, quindi quando parliamo di hub del sud Europa del gas, come leggevo stamattina sui giornali, ricordiamoci che è un progetto comunitario, non può essere solo nazionale. Per questo comprendere quella che sarà la mission dei prossimi mesi di Snam Rete Gas e la sua governance in cassa depositi e prestiti diventa fondamentale e quindi diventa importante capire quale assetto competitivo del mercato vogliamo darci e da qui quello che potrà anche essere il ruolo di una pluralità di operatori italiani e ben vengano anche quelli stranieri rispetto a migliori condizioni di approvvigionamento della materia prima. È ancora appunto un processo in atto, indubbiamente questo elemento del gas è un elemento importante proprio nella prospettiva augurabile di una ripresa economica che porti ad aumentare anche i consumi e che quindi che porti anche alla possibilità di approvvigionamenti sicuri e soprattutto economici. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea, ma prima diamo spazio alle notizie sul traffico. 9 in punto. Rieccoci a parlare di energia, di bollette, di costi, di politica energetica. Amedeo da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo gentilmente chiedere a qualcuno dei vostri ospiti se poteva chiarire quali fossero i costi fiscali sulle nostre bollette, perché e fare un paragone con quello che succede in altri paesi, perché si sente parlare di oneri impropri, però non si sente mai parlare di cose fiscali, accise comunali, provinciali, regionali, IVA sulle tasse, mi sembra una cosa veramente assurda questo sistema, anziché parlare soltanto delle energie rinnovabili che gravano tantissimo sul, secondo alcuni ospiti, sul costo della bolletta. Grazie, la domanda mi sembra chiara. Alessandro Ortis, ex presidente dell'Authority per l'Energia, quanto pesano le tasse? Ma molto, a mio avviso troppo, ma comunque 34%, noi prendiamo una bolletta campione, una bolletta di una famiglia media, vediamo che le imposte rappresentano il 34% della bolletta gas e il 13% della bolletta elettricità, alla quale al quale 13% va comunque aggiunto quanto riguarda gli oneri di sistema, che io considero degli oneri parafiscali, che sono il 16,5%. Tutto sommato, tra oneri fiscali e parafiscali, abbiamo un terzo della bolletta vincolato a questo tipo di onere, insomma. Perché la bolletta, come si sa, è fatta di tre macro componenti. uso sempre il termine sandwich, è fatta della componente più significativa, naturalmente, e giustamente, che è l'energia, che è più del 50%, più di un mezzo, insomma. Poi abbiamo questi oneri fiscali e parafiscali dell'ordine del 30%, un terzo quindi, e poi un sesto va nei servizi essenziali per portare l'energia nelle nostre case, che sono il sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio nel caso del gas. Quindi fa bene il nostro interlocutore, l'ascoltatore, a puntare il dito anche sugli oneri fiscali e anche a l'IVA all'interno degli stessi, perché per esempio una delle iniziative che potrebbero essere assunte, a mio avviso, è quello di sgravare l'IVA almeno sugli oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica, perché si tratta di oneri fiscali su oneri parafiscali. Ecco, poi c'è questa componente A3 sulle rinnovabili, quanto pesa, dottor Ortis? Beh, la componente A3 pesa il 15% in questo momento della bolletta, magna pars sono giustamente le rinnovabili 87% e le assimilate cosiddette 13%, insomma è qualcosa che in questo momento, così come è fatta la bolletta di questo trimestre, vale grosso modo un 10,5 miliardi di euro e le rinnovabili da sole 9 miliardi circa. All'interno di questi 9 miliardi troviamo qualcosa come 6 miliardi per il fotovoltaico, quindi non c'è dubbio che i consumatori italiani sostengono in modo molto significativo lo sviluppo delle rinnovabili, ecco perché è più che necessario che questi soldi, queste risorse preziosissime che vengono dai consumatori, siano usate al meglio. Ecco, e su questo fronte, dottor Ortis, volevo lasciare la parola a Federico Redida, l'ho interrotto all'inizio, gli do la parola in conclusione perché proprio stava parlando di rinnovabili. Gli incentivi per le rinnovabili sono un problema, Federico Redida, vengono usati bene questi fondi per le rinnovabili? No, non vengono usate bene, diciamocelo molto chiaramente, nel senso abbiamo il trascinamento di anni di come dire, politiche e di incentivi palesemente errati e squilibrati. Non parlo di quello che sta succedendo adesso, dove diciamo come bontà della politica di incentivazione delle rinnovabili ci siamo tutto sommato riallineati a dei buoni criteri. Ma nel passato che cosa si è fatto? Per recuperare il passo rispetto non a tutti gli altri, ma alla Germania che era molto avanti a noi, abbiamo dato un'accelerata violentissima e senza pensare che i corretti investimenti sulle rinnovabili dovessero in qualche modo creare anche una cosiddetta filiera nazionale di tutti quelli che sono gli apparati, i pannelli solari, gli apparati di controllo, eccetera, eccetera. Abbiamo installato un mucchio di apparecchiature spesso di scarsa qualità e di scarsa durata, comprate sui mercati asiatici o in Germania, quelli dobbiamo dire migliori, ma in ogni caso su cui abbiamo maturato il fatto di essere tributari verso le importazioni dall'estero, e questi apparati stanno andando a scadenza adesso perché stanno diventando vecchi, sono relativamente poco produttivi, ci sono costati un mucchio di soldi e non hanno creato questa filiera nazionale, cosa che adesso si sta cominciando solo adesso a fare, caricandoci di un sistema di incentivi ventennali, per cui questa cosa ha un trascinamento ancora per i prossimi anni molto forte, come ricordava il presidente Ortis, e questa spesa non è detto che non dovesse essere congegnata in maniera diciamo più razionale e produttiva. Ecco, è chiaro che qui il problema qual è? È quello di calibrare correttamente il monte incentivi che si dedica a questo settore e i costi che vengono spalmati sulla bolletta. Il presidente Ortis era il paladino di un concetto che in qualche modo io ritengo molto condivisibile, cioè che dovesse essere almeno in parte, come dire, socializzato, spalmato sulla fiscalità generale il sistema degli incentivi e non caricato solo sulle bollette elettriche. Ma evidentemente è un problema di calibrare questi due pedali, diciamo, gli incentivi e i costi, che proprio attiene all'esigenza di elaborare una politica energetica, un piano energetico nazionale che superi, come dire, l'approssimazione e l'episodicità di quello che si è fatto in passato. Ed beh, una piccola consolazione però ci può essere, perché almeno le bollette elettriche le pagano chi l'elettricità la consuma, il fisco sappiamo che di evasori ce ne sono e anche troppi, forse è più difficile evadere il pagamento della bolletta elettrica, ed è anche per questo che qualcuno ha pensato di mettere sulla bolletta elettrica anche addirittura l'abbonamento alla televisione. Però questo è tutto un altro discorso, dove vorrei cambiare argomento. Io vorrei restare appunto su questo tema e concludere, ci avviamo un po' alla conclusione, sul fatto che comunque dobbiamo avere una politica energetica e tener conto anche di alcuni passi falsi che forse abbiamo fatto in passato. Allora, Edgardo Curcio, professore e presidente dell'Associazione Italiana Economisti per l'Energia, lei cosa vedrebbe come priorità per fare un passo in avanti per affrontare non certo tutti i problemi che abbiamo messo un po' a fuoco oggi, ma per andare a fare un passo almeno nella direzione giusta? Professor Curcio. Allora, devo dire che il governo in questo campo si è mosso indicando almeno 4 obiettivi di politica energetica che il ministro Passera ha recentemente indicato e che dovrebbero poi far parte di questa strategia energetica nazionale che vedrebbe, diciamo, in autunno una conferenza nazionale dell'energia come luogo di discussione e di approvazione di questa, diciamo, linea nuova. I punti che sono stati indicati sono essenzialmente l'efficienza energetica, lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi, che è molto importante perché noi così ridurremo la nostra bolletta energetica, che è stata l'anno scorso di 62 miliardi di euro, pari al 4% del PIL. Potremmo anche creare un hub del gas, questo è un discorso molto importante perché ci renderebbe liberi dalla schiavitù di importare e consumare, ma potremmo importare e riesportare, facendo del nostro paese quindi un mercato del gas di esportazione. E poi l'altro punto che il ministro Passera ha indicato è lo sviluppo delle fonti rinnovabili come luogo per creare della nuova tecnologia e dei nuovi investimenti. Ecco, questo fronte appunto delle rinnovabili come anche nuove tecnologie, come capacità di ricerca e anche come capacità, come sottolineava giustamente Federico Rendida, come capacità di risposta dell'industria nazionale verso queste nuove forme di produzione che accoppiano il fatto appunto di ridurre la dipendenza del petrolio, anche un maggiore rispetto dell'ambiente. Sappiamo come sia importante e divenga sempre più importante la problematica ambientale, una green economy che non è solo business ma è soprattutto una capacità di creare una maggiore qualità della vita. In 30 secondi, Paolo Landi, cosa vede come priorità per i prossimi mesi? Ma guarda, una priorità riguarda l'autorità, e cioè sanzionare pesantemente chi non si comporta correttamente nei confronti del consumatore. Questo per far funzionare il mercato in modo corretto. Una seconda priorità che abbiamo posto anche a livello europeo, ne stiamo discutendo, è che in questa giungla di tariffe, perché c'è una giungla di tariffe e di offerte commerciali, occorre delle tariffe standard comparabili in modo semplice, come avviene al supermercato con i vari prodotti sullo scaffale. E la terza cosa, per aumentare la concorrenza, c'è bisogno di una maggiore integrazione delle reti a livello europeo per aumentare la concorrenza, perché questo è un problema non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi europei. Far funzionare meglio il mercato aperto anche agli operatori internazionali. 30 secondi anche a Massimo Beccarello sul fronte delle imprese, quali sono secondo lei le priorità? Io ritengo che sia importante avere un approccio strutturale al 2020 per l'efficienza energetica. Ci sono già iniziative importanti del governo, tipo le iniziative del ministro Profumo sulle smart city, sono dei progetti rilevanti perché insistono su un settore industriale che è pronto a cogliere le sfide della green economy. Quindi dobbiamo dare garanzia di stabilità di percorso in relazione agli obiettivi ambientali. Grazie. Per concludere, Alessandro Ortis, 25 secondi per dire la priorità secondo lei nelle prossime settimane. Chi ci ascolta sono consumatori e cittadini, quindi velocemente io uso questi secondi per ripetere il numero verde dello sportello del consumatore, 800 166 654, ripeto, 800 166 654. Lì due cose si possono fare: uno, avere contezza dei propri diritti e della propria capacità di ottenere assistenza e tutela, e secondo, denunciare ciò che non va, perché ci sono delle regole molto precise in essere e chi viola le leggi deve essere punito. Grazie mille, grazie Alessandro Ortis, mi sembra molto chiaro, chi non rispetta le regole va punito, e grazie a Franco Piantanida in regia e a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per domani, oltre che ovviamente a ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Radio 24. La passione si sente.